quindi la storia di Manuel Pereira da Ponte Martins, dittatore agorafobico, che voleva questo e quello, il potere a Teresina e i viaggi in Europa, e che, destinato al linciaggio, avrebbe tentato invano di sfuggire al proprio destino. L'unica idea che gli venne per trarsi d'impaccio, proprio un'idea da dittatore, fu di assoldare un sosia. Il sosia gli assomigliava in tutto e per tutto, quanto un uomo può assomigliare a un altro uomo, ben inteso, con un epsilon di differenza. Nessuno notò l'epsilon. Per assicurarsene, dopo aver messo il sosia al corrente della sua vita e dei suoi affari e averlo esercitato al mimetismo con implacabile severità, Pereira lo mandò a porre una domanda a ciascuno di quelli che gli erano più vicini. La stessa domanda a tutti. Chi sono? La domanda non piacque al vecchio da Ponte. Fissò severamente il ragazzo che gliela poneva. Il potere non deve farti dimenticare chi sei, Manuel. Tu sei Manuel Pereira da Ponte Martins, la gloria del mio sangue, non dimenticarlo mai. Il sosia baciò la mano del padre e andò a porre la domanda al colonnello Eduardo Rist, direttore dell'Accademia Militare, capo dell'esercito, amico d'infanzia di Pereira. Avevano studiato insieme dai gesuiti e passato notti silenziose a giocare a scacchi. «Lei è Manuel Pereira da Ponte Martins, il nostro presidente liberatore che ha compiuto la mossa vincente facendo saltare la testa al generale!» «Ben detto, ma l'epoca degli scacchi è finita, Eduardo», rispose il sosia che non conosceva quel gioco. «A proposito, in privato puoi continuare a darmi del tu». Per strada, vestito da contadino, domandava a casaccio. Riceveva sempre la stessa risposta. «Lei è il nostro orecchio». O ancora quella venditrice di serpenti al mercato di Teresina. «Pereira, anche travestito da mangusta ti riconoscerei. Sei il cuore che batte nel mio petto». Il sosia era pronto. Pereira gli fece pronunciare il discorso di Capodanno che aveva preparato per le cancellerie straniere. Era un discorso il cui tono misurato e la cui erudizione politica segnavano un taglio netto con le festose eruttazioni del defunto generale presidente. Con una coppa di champagne in mano, il sosia ricevette le congratulazioni destinate a Pereira, il quale, poco più tardi, nel suo studio privato, negoziò le nuove percentuali sull'oro, sul nickel, sul petrolio e sull'Akhmaton. A titolo personale, Pereira pretendeva più del defunto generale presidente, ma seppe farsi perdonare aprendo un conto in ciascuna delle banche nel cui consiglio di amministrazione sedeva un parente del suo interlocutore. «Lo consideri un omaggio personale alla sua famiglia, signor ambasciatore?» aggiungeva per vincere le ultime reticenze. «Un omaggio su cui le spetta un diritto di commissione».